Sì, sta voce te scede in da nottata, mentre da strigna o sposa tui vicina. Statte scetata, sì, vo sta scetata, ma fa vedere adorma sonnechina. Non chi vicina e l'astro fa spia, perché non può sbagliare sta voce mia. È la stessa voce e quando tu cornosa in c'è, parlavamo con voi. Sì, sta voce te canta dintro cuore, che la canuna te cerca e non te dica. Tutto dormiente è un lontano amore, tutto l'amore è in un dormiente antico. La così chi canta in questa via o s'arrabbazzo amore e gelosia, sta raggiagnendo qualche infamità, cantisse solo ma che canta fa. Sta raggiagnendo qualche infamità, disse solo ma che canta fa.